reportage. COP21 e l'impegno sull'ambiente. Dalle parole ai fatti, di Laura Bettini. En cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour. È passata una settimana da quando il ministro degli esteri francese Laurent Fabius, presidente della 21esima conferenza delle parti, la COP21, annunciava commosso che la circostanza era storica perché l'accordo era raggiunto. Nelle ore successive, poi, il testo, passato al vaglio da tutte le delegazioni, è stato votato alla quasi unanimità dei presenti. Solo il Nicaragua, rappresentato dall'inviato Paul Hawquist, lo ha rifiutato, sostenendo che mancava di ambizione e garanzie sui finanziamenti, chiedendo di creare un fondo di compensazione legato alla responsabilità storica dei paesi già sviluppati e insistendo sull'inserimento dei paesi del Centro America tra i più vulnerabili. Monsieur le Président François Hollande, Monsieur le Secrétaire Général. Di tutt'altro tenore e di grandissima soddisfazione invece gli interventi di Carole Di Spurg, ministro dell'Ambiente del Lussemburgo, che ha la presidenza di turno dell'Unione Europea. J'aimerais te féliciter. Voglio congratularmi per il lavoro eccezionale che è stato fatto, dice, e per i risultati eccezionali che sono stati raggiunti. E sulla stessa linea ha parlato pochi istanti dopo il commissario europeo all'energia e clima, che a nome dei 28 paesi dell'Unione ha condotto le trattative a Parigi. Infervorandosi nel discorso, che ha seguito davvero di poco quello pieno di rimproveri dell'inviato del Nicaragua, il commissario Miguel Arias Cañete ha rassicurato i paesi in via di sviluppo. Vi assicuro che l'UE continuerà a starvi a fianco, che innalzeremo il nostro livello di supporto finanziario al 2020. Monsieur le Président, ladies and gentlemen. Signor Presidente, abbiamo un accordo forte che ora deve essere implementato. Oggi celebriamo, domani dovremo agire. Quando ci ritroveremo in Marocco l'anno prossimo, dovremo essere in grado di mostrare progressi tangibili. Questo è ciò che il mondo ci chiede. This is what the world expects from us. In questa intervista, Giovanni La Via, capo della delegazione del Parlamento europeo alla COP21, ha ripercorso al microfono di Anna Marino i principali punti dell'intesa. Si pone in primo luogo l'obiettivo di ridurre del 40% le emissioni dei gas a effetto serra rispetto al 1990, l'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica del 40% e di arrivare con le rinnovabili a una produzione del 30% dell'energia complessiva necessaria al sistema Europa, con una serie di interventi concreti. Quali? In primo luogo regolamentare meglio il mercato della CO2 in modo tale che ci possano essere più imposte per chi inquina, cioè che possa valere realmente il principio inquinatore-pagatore. Ma i prossimi obiettivi e i tempi quali sono? Intanto è la ratifica nel prossimo anno da parte di tutti i soggetti, quindi da parte di tutti i 195 paesi, e quindi in Europa lo approveremo in Parlamento europeo. Se tutto andrà come deve, l'accordo sarà ratificato dall'Assemblea Generale dell'ONU il prossimo aprile per entrare in vigore nel 2020. Quanto sarà vincolante? È un patto firmato tra paesi, quindi vale. Ma per sapere quanto ogni singolo impegno sottoscritto è stringente, bisogna scandagliare i singoli articoli. Il condizionale o l'indicativo fa la differenza. Come faranno la differenza gli impegni volontari presi dai firmatari, i cosiddetti INDC? Nell'accordo si prevede che ad ogni revisione periodica gli obiettivi siano rivisti al rialzo. Intanto però quelli portati a Parigi ed entrati nell'accordo sono insufficienti a contenere il riscaldamento del pianeta sotto i 2 gradi. Li ha studiati nel dettaglio Massimo Tavoni, docente del Politecnico di Milano e direttore di divisione alla Fondazione Mattei. Abbiamo cercato di valutare 3 criteri. 1, l'efficacia. Dove ci portano? E soprattutto cosa dobbiamo fare per renderli, intensificarli e renderli più stringenti? 2, sono economicamente razionali, possiamo renderli a costo più basso, oppure con lo stesso costo possiamo fare di più e quindi avvicinarci meglio ai 2 gradi? E 3, sono equi, che per la parte negoziale è fondamentale. L'equità si intende se i paesi più ricchi fanno uno sforzo maggiore dei paesi più poveri, detta come va detta. Allora, la nostra analisi dice che come efficacia, se tutti saranno implementati veramente, ed è questa la domanda, l'assunto, se vengono implementati non sono male, una pagella diciamo gli diamo un 6, nel senso che è vero che non sono quello che dovremmo fare per fare 2 gradi al 2030, perché gli INDC arrivano all'anno del 2030, Però è anche vero che c'è tanto tempo dopo, ci sono 70 anni, quando si parla di 2 gradi si parla di 2 gradi al 2100. Efficienza economica, che è il secondo pilastro che abbiamo guardato, cioè a che costi, in che modo viene fatto. Pagella 5, nel senso che potrebbe essere fatto a costi più bassi, quindi ci sono delle inefficienze. Le inefficienze derivano dal fatto che alcuni paesi hanno obiettivi forti, altri paesi hanno obiettivi deboli e da un punto di vista economico è meglio mettersi tutto insieme. Equità non male, cioè almeno dai nostri analisi, diciamo pagella 7, nel senso che i paesi più ricchi prendono uno sforzo, sì, accolgono uno sforzo maggiore. Restiamo sul discorso dei finanziamenti. Quanto è stato finora dedicato a misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici? Lo ha studiato la Climate Policy Initiative di Venezia. Sentiamo la direttrice Barbara Buchner. Ci sono 391 miliardi di dollari che sono attualmente spesi in azione per il cambiamento climatico in tutto il mondo. La gran parte, il 93%, è sulla mitigazione, però è anche un problema ancora di dati, veramente capire di chi è dietro dei finanziamenti per l'adattamento, soprattutto il settore pubblico sta finanziando, ci sono degli istituti come la Banca Mondiale che stanno utilizzando il supporto pubblico per catalizzare, per mobilizzare altre risorse private, che è molto importante perché noi sappiamo che i soldi pubblici non sono abbastanza. Il settore privato nel 2014 ha finanziato il 62% di tutti i flussi globali, quindi si vede che ci sono già degli incentivi e delle opportunità per il settore privato. Adesso però, come diceva il commissario Arias Cañete, è anche il tempo di agire, senza dimenticare che agire per il clima è anche agire per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Bruciare combustibili fossili per l'energia, l'alimentazione delle auto o il riscaldamento delle abitazioni fa male al pianeta e ai polmoni. Quindi politiche per l'aria e per il clima dovrebbero andare di pari passo. Per questo la ripresa della discussione sulla direttiva cosiddetta NEC sui limiti nazionali di emissioni inquinanti dal 2020 al 2030 è stato un momento importante, ma la linea che hanno inaugurato il 16 di dicembre i ministri dell'ambiente europei ha destato non poche preoccupazioni e perplessità in chi segue questa trattativa. Come Anna Gerometta, presidente dell'Associazione Cittadini per l'Aria. Il testo che è arrivato dalla Commissione e dal Parlamento europeo, che era piuttosto, diciamo, buono, ambizioso, è stato dal Consiglio dei Ministri europei svuotato sostanzialmente di grandissima parte del suo significato. Originariamente l'obiettivo della Commissione era di arrivare ad un testo che riducesse le morti in Europa al 2030 del 52%. Si è arrivati ad un testo che riduce le morti in Europa presumibilmente al 2030 al 48%, sostanzialmente aggiungendo 6 punti percentuali rispetto allo scenario in cui non si facesse nulla, cioè come dire, se non si farà nulla e quindi mantenendo le politiche attuali, le morti da inquinamento dell'aria in Europa si ridurranno del 42%, okay? Senza far nulla. Il testo previsto, il cui livello di ambizione era, diciamo, buono e proposto dalla Commissione, prevedeva che la si arrivasse quantità, al 52. Si arrivasse al 52, il Consiglio dei Ministri di mercoledì ha ridotto al 48% della... Se riduce questo obiettivo vuol dire che riduce le politiche sulle emissioni. E certo, e che cosa è successo? A una settimana di distanza dal COP21. Hanno tolto, estrapolando dal testo, il metano, che è, fra l'altro, per casa nostra è un problema serio perché il metano è un precursore dell'ozono. Noi abbiamo l'ozono alle stelle in varie aree del paese, quindi metano tolto dagli inquinanti. Tolto poi il metano, che si è ridotto fortissimamente il livello di ambizione delle riduzioni di ammoniaca